periodico, è a periodo, invece come chi sono in mano, ti fa male. Ma io penso che c'entra anche un po' il fatto che loro che noi siamo invecchiati e lavorano di una sciama ce l'ha più. Appena acceso in Barbera, e sono di due temperature, lo vedi anche qua. E solo che a me mi fa dormire, a me mi fa addormentare, riscaldare, quando faccio viaggi lunghi, non accendo mai. Ma io sì, a minimo, per stemperare un fuoco, quel finestrino fa la polvere, lo accendo sempre, e se no, cazzo ce n'è anche a meno uno la notte, siamo a 8 gradi adesso. Beh, quelli bisogna accendere sì, quando è così bassa la temperatura, sì. Grava. Sì, vabbè. Ce l'hai, allora, riscaldamento, te l'accendi quando c'è freddo. Ma no, ci sono due tipi di riscaldamento, c'è il riscaldamento a chiatto, qua, che è bomba, altro che bomba di calore. No, c'è va. Ah, io lo uso poco, so, per sempre la temperatura, boom, quando stai a quella temperatura lì, intanto, molto caldo, non fa, sali, scendi, poi te ne prendi un accidente. Tutta la tirata Ulmia. E io l'ho tirata, però quando arrivi lì se sei accaldato, lì c'è anche umidità, ti frega, capito? Sicché preferisco una temperatura normale, capito? Già te credo, quello è vero, quello è vero. Oh, Pierpaolo, riprendi. Ciao, papà, se l'hai ben sentito, Pierpaolo, quella qua, questa parte. Non voglio perdere la disoccupazione. No, non te lo dico, non c'è. siamo tutti e quattro a casa così, così unissimo. Manuela, io, Marco, mia moglie, tutti quanti con la tosse, anzi, la Viviana li ha passati adesso. Sino a ieri era dolore forte, non riusciva manco a piegare. Ma visto che non vedo che sono delinquenti, mi odio, che si faccia niente. E nell'aria è nata lì, già si darà colpa al bambino. Nell'aria, io a febbraio non penso di avere, anche se sono caldo. Perché io sono già abitato di natura, capito? Quindi non si capisce se va a febbraio o no. Infatti, non riguarda, di no, non farò manco. Non si sa mai, cazzo, mi fa influenza, per caso. E non venghi mi faccio niente, che lo deve fuggire la sera, ragazzi. Ma anche se lo dà tutto bandito. Sentitoci, è al computer dentro con Manuela, ci stanno guardando un film. No, non lo dici qua, lo sfruttiamo domani, va. Ah, raga, ma sono coccati, lui è 32 e si è guardato un film. Da si scarica fino a tutto andare. Oh, ma ha cercato, ecco, qua, cosa? Ha cercato Titi anche con questa? Ma non so, non l'ho misurata, ma lui sta sdraiato dove c'è il video del termosifone, si scalda così, non è altro problema. E poi non lo faccio mai uscire fuori, tranne che per mangiare. Gli ha attaccato un anello l'influenza, puzzinosa. Ma a volte la freddore se l'ha presa. Quando prende la freddore per passare, come li vengono gli occhi, c'è una membrana che si fa bianca. Che sale e mi tappa l'occhi aumentata, non le lo fa aprire. Una membrana strana, tipo un velo. Con l'influenza. Ah, vero? Sì. Cosa guardi di abitare? Di lacrima agli occhi, e c'è nato un bel umido. Raffreddato. E poi stanotte c'è proprio tra tutti. Ma da me si porta buona edda. E poi quando mi ha con la giacca non mi ha voglio piano. Adesso fa così. Ma lei si porta bene e si schiarisce pure la voce. Le pastiglie del lato. Pastiglie normali. Le pastiglie che mi ha dato il coso, come si chiama? Se è stata una roba da mangiare. No, a me è la roba da mangiare, lei mi ha mangiato poco. E tu lo sai cosa devi fare? Gli elementi appena appena, e mentre ci metti la pastiglia, di modo che tu sei sicuro che l'ha consumato. E poi gli aggiungi il resto. Oh, ma vedo sì, è più come l'hai fatto. Se c'è da dove si fa poi, se tu l'hai fatto, meglio così. No, c'è come, ho messo due bocconcini e poco per mangiarsi quelli. Questi rubini in prezzo non più serve la pastiglia, però sapeva che si guagnava. Non è fatti tipo il coccodrillo che sono bani. Comunque. Siamo tutti più cicati, dai. Migliai, ha provagliato la passata. E gli occhi come ce li ha più a fare? La membrana bianca di salita. A vedere, ma se prendo quella la pastiglia, lo butti sempre così. Pagato. Io che ce l'ho così, c'è una cosa che ha pizzo con un bianco, non l'ho visto io. E raffreddato, Ehi, ha raffreddato, c'è il muso, proprio scontrolato. Vabbè, già le fascia. Sono notissimi. Ma sì, sì, sì. Io sì. Io lo so, sì, anche ti lo facevo quando siamo presi da freddore. Ma perché lì se l'ha preso, perché è andata a mangiare, mia moglie ha visto la porta mezzo su chiusa, l'ha chiusa del tutto, è rimasta la notte fuori, non si è accorto che c'era il gatto, e l'ha preso di fronte per quello. Diventano finocchi, vero? Cavagava! siano sì. Il prosieguo. Rafa ha ritirato la paracchiausa. stazione chiave, ma è andata a messa oggi. Cavacame. Pronto, sì. Natalia. Tra poco c'è un altro, Ne hai un altro? Sì, Ma spiega, se io non riesco qua a me, non ho più nulla. Fatti un bronzo, ma ne va a me, Fausto. Scappa. adesso ci stava in passato, se non abbassa all'altra. Ma è solo un autista, fai. Fai tutto. Vabbè. L'importante è andare a lavorare poi. Sei un po' pesante, dai, già, già si risolve. Già lo so. Ma poi c'è un tavolo del direttore di lavoro, diciamo, cambia cosa, non è mai decisa nulla, ogni anno diciamo. Cambia sempre. Sì, papà, perché deve essere che vi pago, allora difendi il canale là. Ma non sto capendo male, ma cambia il datore dei lavori o ti fa cambiare le zone? Le zone fa cambiare. E quello che dice lui è legge, un altro deve venire sotto stare. Certo, ti osservano quella gente lì, io lo so. E a me ha fatto quella salvame, tanto lo sa, io travaglio, allora si dice, osserva. A me mi ha acciappato pure piantendica, e io non devo piantare che sono artista. E a me non mi dice nulla. Scappa. Sì, no. No, ma ti vedo, perché poi la prossima volta molti invece di Naputi mi fanno i rompi. Io so che ti guardano anche da lontano con la macchina, avessi tu sei travagliente. Molti invece di Naputi mi fanno i rompi, come una volta ho sentito una cosa qua. Amorami Naputi. Io non ha più gana di travagliare, una cosa del genere. Ma tieni così, così si accappa una guarda, te lo trovi davanti ma te ne accorgi. E poi controlla chi su me. Sia lui che gli altri, anche gli altri controllano, non è che controlla solo lui, no? E di cuca mai cosa, ma poi di cuca. Beh, ma da quello che ho visto, lo vedevo da qua, è di Norovedia, quello che è il direttore del lavoro che veniva qua, io lo vedevo che ogni tanto veniva e controllava, però si puniva pure di tanto che puniva. E ho passato pure la macchina, fate le pinte di capricci, invece di sua paesina, ma era giusto, io lo so qui, a me mi fate così i primi tempi. A me non c'hanno bisogno neanche di controllare perché lo fanno, chi lavora e chi non lavora, ormai lo sanno già, però fatta, a me mi controllavano anche da lontano, io non li vedevo, però vedi che controllavano, poi la sola volta addirittura uno di questi qui mi ha detto a un collega mio, se mancate tu e tale persona è un casotto. Ormai da Giusani a travaglia, non travaglia. C'è molta gente che vuole soddisfarsi purtroppo. Finché esiste questa gente, sarà sempre così, c'è sempre un casino. Addirittura, vivo da una cosa a quattro bastoni, figurati. Perché mi telefono. Eccomi, gata! Non l'ha fatto cannellare, ma di lui fa vero però a me. Cazzo, lo solo che l'imprenditore burro la geometra. La notte è già. E ce l'ho. Ma 38 e 2. Una nuova 38 e 38 e 2. Di poco, ho dato 37 e mezzo io, ma di poco. Vabbè, poco però. Mi sento un po' debole, un po' strano. Me ne accorto che ce l'avevo. No, io ho detto 37 e mezzo, che sarebbe un pochettino più alto corpo d'acqua, 37 e mezzo, 38 e 2, mi sono sbagliato di poco, Io ho preso un attacco in piedi, non basta, c'è per fare rispetto a Natali, le supposte le ho conservate per lui. Dai, caro, tu sì che mi pensi a me. Fastidio e via. Perché non le usi le supposte? Le uso, ma diciamo che adesso non ce li ho, le pastiglie, uso le pastiglie. Ah, cosa c'è, paura? Che paura, io non ho paura né di iniezioni, né di supposte, né di nulla. Calma, no, già fa bene la supposta. Oh, io non è che mi piace con la... Ho sentito più... Ma ecco che c'è preso gusto. Io ho pegato il gusto. Invece la natalina non le basta con le tacche finite, vuole un po' la gente, sono più lunghe. Sì, cazzettina, ognuno ricucce su, i cazzettina, ma ognuno piglia chi ci deve fare gli altri. No, per carità, non sto criticando il tuo tipo di gusto, lo so che tu hai la maglia della granetta come i tedeschi, come gli americani, cioè. E ti piacciono grazie per questo. Vabbè, ognuno la pensa come vuole. Io neanche tu. Già me la metti ci sono forte, mamma mia. Una volta me ne ha segnato, a poco che erano i ronchi, c'è il buttato di vecchia, né? Mamma mia, me ne ha segnato un paio che era un bel lungo. I depolaggi sono quelli più lunghi che ci sono, per la febbre. Per la febbre, no. Da 1000 ml. Che si chiama le biglie di nessun tipo. No, la figlia non è nuda. Mentre obbliga la chissi che di soccorso è tappiato. Come varavano le biglie? Una cosa. È raro che io sembra... Iniziano i pirinali, erano una debilità, tanto niente di umano, non le bigliavo una stessa. Io prendo quelle che sono costretto a prendere e basta, ma perché proprio le devo bigliare per forza, se no non le bigliate manco di chissi. Se non ti avevi fatto la bocca del mare, se passi in bocca, le prendete che già stavo nascosto, dai, che vanno giocando, stasera non ne ho voglia. Che devo dare una sistemata qua e poi... Mi pare che non ne ho potuto portare tanto, perché ho dormito bene stasera, perché non stavo bene. E dai, adesso facciamo le dolci. Sembra che se ti ammeni tu chi, non te ne accorgi che va freddo, sembra fresco. E invece ce l'ho. Quindi sei un bel trasformato, no? Non devo andare un boletto indosso strana. Vado a Bisamini e torno a Busami. Immagino che le bollette che c'è. Invece c'è un amico che ti accorgi che ce l'ho. Ma... E non devo toccare con le pinze. Come ti piace o fai? Con le pinze a rompermi. No, rompermi no, E così, almeno vediamo se c'è ancora. Se è qui vuol dire che c'è, se no vuol dire che non c'è. Intanto lì da mattina mi sono usciti che sei un bel macciazzone, mi solo che faccio l'impresso, non ti fa nulla. E la cara? Il nastra. Il da... La roba. Ehi. Tu niente. Tu fatti. Una cosa tu fatti, grazie che è interessa che... Ma ne fatta beffa oggi. Ho fatto i tuffi. Come ti ha beffa? Noni, mi hanno fatto andare e tornare da tre parti oggi, anche la Giona. E poi mi ha anche scortato, mia. Scortata? Chi c'era lo passivo allora? Perché c'era la roba in macchina e allora c'era lei dietro. E dopo che Augusto su niente, mi gatta chi se fosse avvisato che era già messo la rita, giù di tu. Ma finché ha telefonato, ha detto, Augusto non ti sento, cazzo. E ha mollato la rita, anche da me se fosse se ne avvisato e si è avviato. Ma che ha fatto? E con questo di notte arriva. Ma ha detto come si sta detto con Massimiliano. Cosa? Ha detto. Che è detto? Aspetta. Già Comunque stiamo oscillando, avvicinando, cioè. E chi c'è l'oscillatore? Io? Come parli oscillamondo, lo smitter? Perché sono basso di razzo. Con mille parla. No. Oh, sono brutti. Ma lo so, oscilla. Benissimo. Gianni no, c'è sempre fisso qua. Invece la messo per dare picchi di modulazione, così. Fisso sono. Sì, è sempre fisso. Fondo schiena, fondo scala. Guarda, vedere se ci ho io i picchi di modulazione, se è. Thank you. a volare in capo, e vedi riesci, ma lo potete immaginare, io c'ho sempre il computer acceso, ma che cazzo, sono con la gattesa fa, quando non uso più trattenere, adesso lo spengo. Volte si accende qualcosa e non si usa. E infatti, ma io sono gli anelli ciurati, a ripeto. Certo, che sua energia è bassa. Infatti, ma gira gira, se mi guardo un po' di TV, e me la chiudo. Lo vedo qua. Bene, ti sei da via. Ok. Allora, ci sentiamo alle prossime, che me ne faccio in cuore di me, guarda un po' di TV, va, se c'è qualcosa di interessante. Basta, tagli il volo. Basta. Ciao a tutti. Quello ti serve, va. Ciao, tagli buonanotte. Ci riascoltiamo alle prossime. Guarda, guarda il tempo. Aspetta, che sto facendo ancora un bar. buttiamo un pochettino, lasciamo se ne ascolti. Che bella radio. Oh, ma se tu dove vai? La gara è che è la gara. Ma non voglio una faccetta. Guarda la vita. Aspetta, ti rasca questa cosa. Io ce l'ho giù, ma non per qua. Sì, più bello. Oggi a secco. Un secco di sigarette. Già, hai fatto quel lavoro là, vero? Sì. Mi te l'avevo detto, l'altra volta. Infatti, si sente chiara chiara. Cappa chiara. E oramai c'è quel chiarificatore, va bene. Sì, sì. Ma prima non andava bene, come era prima. Adesso va bene. Ma se non andava bene, passa. No, te l'avevo spiegato, te l'avevo. No, non lo spiego, vabbè, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. No, non lo andava bene. Niente, se c'è quello, Mi sa che io mi saluto e mi metto tutto a letto definitivamente, così almeno questa storia mi passa, se no non mi passa più. Scala. Va bene, già dai, buonanotte. Dai, ci sentiamo domani, dai, non c'è nessun problema. Lo capisco che sì, così, dai. Non ci sono problemi. Ciao Pierino, ci sentiamo, buon lavoro per domani, buonanotte e buon tutto. Io sto facendo pure il remedic definitivo. Ciao ciao ciao. Ciao, buonanotte già. Buonanotte, buona guarigione, ci riascoltiamo tutta domani alle prossime. Ciao, buonanotte. Ciao ciao, grazie. Ciao ciao. Un po' particolare. caldo qua, perché c'era sul faccio e l'altro fa aperta. Se no, a Rosario come ti dico, io no, fino a qua ci puoi rimanere, qua. Fate a freddare i due, ui ui ui. Oh, ce mi ha fatto freddo, io ho 22 gradi qua nella stanza dove c'ho i gradi. Nel salone ho visto che c'è abbastanza caldo, io sono un pigiano. Ma vabbè, no, non ci sono problemi. Ottimo per la truppa, va bene, va bene. Rispetto ad altri giorni, oggi ti posso dire che non è stata una giornata fredda. Ma non è però un po' bello, era per andare a nota la guerra, adesso vedo un po' cosa la situation, se promette bene. Carica il furgone, noi scendiamo a Pianedigoneto, noi scendiamo il E più basso è così le metto il microonde sopra, capito? Beh, è normale. Sì, sì, sì, si può fare proprio così. Non ci sono problemi, K. Sì, ma non tardi, se ci fa quella cosa dobbiamo farla presto, no? Lì dietro a Londra, sì. No, attacchiamo presto, finiamo subito, non è che abbiamo tutto fatto. Non mi prendo, lo lascio, perché se va affittata come stanno pensando, non lo lascio il microonde. Grazie numero uno. Poi avrei la pottone alla madre, l'ho portato giù io, mi sa. E poi vediamo se c'è qualche altra cosa che magari vediamo lì al momento che serve qua, me la porto giù. Capito? Non proprio. Siamo bigliosi, no? Grazie. facciamo quello che dobbiamo fare e poi quando rientriamo ci facciamo la doccia. E allora facciamo così, dai, io mamma esco, ti chiamo, ti dico, passa sotto casa, lì scendiamo direttamente, eh? E faccia solo un giambà, fa un casino, finisco tardi. Poi quando se non faccio la doccia, ok? Faccio anche io così, gli ho già detto a Mimmo, capito? Ho già detto a Mimmo. No, se non fa, si fa tardi, che se lui la sveglia, si fa tardi. Ci finiamo la scelta, non è quello che vuole, non ci aspetta lo stesso, scendiamo, non problema, io aspetto a te, e poi scendiamo, 10 minuti, un'oretta, un'oretta, facciamo quello che dobbiamo fare, poi saliamo, noi ci mettiamo d'accordo, mi interessa se sei tu così ti metti d'accordo tu per il camion, capito, perché mi pare quello ci voglia la C. Sì, io ci vuole la C, infatti, ma no, no, Franco, ho capito che ci vuole la C, ho capito, si fa tutto, ci organizziamo per sabato e si fa tutto, non proprio, se no la viaggità, cioè, ho già pagato, volevo portare su per forza, infatti, quando ti ho fatto, ma che devo fare con questo... Il salone, me lo rivendo, no, la diritto, ma la statene fare a casa di via Gadeliana. Prendere un capo, dico la prima capo io. Ciao Luca, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, caro. Non me a Franco, Roberto di Cenoglio. Ciao Luca, buonasera, mi sentite? Ciao Luca, ciao Franco, e vabbè, io... Sai che entro come maleducati, no? Ormai è abitudine. Allora, vabbè, perché mi conosco, se no faccio il break, se quando vado a entrare. Se fai il break non ti faccio entrare a te, tu devi entrare così come piace a me, insomma. Sei maleducati, almeno. Allora. E vabbè, siamo di casa, raga. Infatti, quelli di casa possono permettersi di entrare così, gli altri no. KKK, io mai piglia che gioco la povera, alcuni mi dicono che no, che io. La famiglia non la giù più, non me ne più manco uno, bro. Una busta ce n'era, non ce ne fai schifo, te le hai mangiate tutti. Ah, cazzo tutti io me le mangio, cazzo tutti lui per me. Anche lì se le mangio, questa me le ha mangiate tutti io. Sono andato a cercarne una, non ce n'era neanche uno, capito? E tu? E poi mi te le mangi tutti, mi interessa. Quando siamo anche noi, sabato, domenica, me ne ha dato uno domenica mattina, e stavamo sistemando quella radio, e gli abbiamo un bacco, non ve ne manco uno, ma non ce n'è neanche uno, la razza dieta ce la vendiamo a lui. Oh, Iaia, che casino, eh. È casino, mangiare, si può mangiare, va. Mi sono mangiato una bustina, tipo una bustina di mandorle qua. Ah, mi vado a cadere la tua corna, ma giù mi sono messo in fuori su quelli di frutta. E è provvisionata, sì, vedi che c'è una botticella, io sono tanto non ti vedo. No, non so, beh, dai. Però mi ha dato un milione un tempo, non so più. Ma già, guarda, devo dire che sto meglio, caro. A parte che respiro meglio, non c'è più quel dolore che avevo prima. Si vede, maledetta che... Maledetta, io sono stato 10 giorni con la doccia che non la radio manca respirare. Eppure sempre la sigaretta in bocca, sempre la sigaretta in bocca. Maledizione l'altra. Vai Franco, Franco, camomilla, vai! Una merda la sigaretta. E lo dà la comandi. Adesso mi dà... che ora erano le 9 meno 5 sono 10 meno 10 di a 3 me la giocomato. Vabbè, non so chi sia a 3 e di quando è che abortate? Ciao, mi guardo il ricco, dai, mi stai facendo ridere. Ciao, ti porto, dai, mi stai facendo ridere, riprendi qua. Abortate, vieni che abortate. Si mi ha fatto una redima, friendly. speranza, vera, deve essere con tu vuoi davvero. Sperate che avrei manco un uga. Un esempio buono, perché io ti posso dire sono dal 1991 lavoro, il mio lavoro. Anche quando ero fuori ruolo, che non ero di ruolo, avevo già la mia squadra dove io, siccome sai che cosa faccio, praticamente diciamo no, comandavo è una parola troppo brutta, ero un responsabile dirigente, quindi. Però in questa squadra, c'erano due operai che ti posso dire che a me, nella carta no, ma nella pratica mi facevano appetti. Quindi siccome ero consapevole di quello che erano le loro valutazioni, di quello che loro sapevano fare, a volte io ne chiamavo uno o tutti e due anche assieme, dicevo abbiamo questa cosa da fare. Questa è la carta, questo è quello che io ho stabilito. Cosa ne dici tu? Cosa ne dici no? Cosa vorrà? Cosa ne dici tu? È meglio farla così secondo te o meglio farla così? Invece, dai, cosa facciamo? No, come vuoi, non c'è problema per noi, non... No, no, se vuoi da te, se tu vuoi buona in pratica, secondo te non vengo sì, non lo vengo sì. Secondo me, quindi si collabora, si fa, perché l'esperienza di un operaio che c'è 40 anni, e quindi c'è 20 anni prima di te, è molto importante sul lavoro, non è che ti devi vergognare, tu perché sei responsabile andare a dire a un operaio, secondo te come lo facciamo? No, non è vergogna. E collaborazione di gruppo è lavoro fatto bene. Sì, vabbè, certo, normale. Ma dai, faccio un esempio. Ti posso dire, tu lì sei 20 anni, ok? Sei 20 anni, ok? Entro io e faccio lo stesso quello che fai tu. Ma io sto appena entrando. Cioè non posso io pretendere che tu tu personalmente, non ho magari uno che ci rimane 10 anni, però tu personalmente sei 20 anni che ho pretendo da te di passarmi il ferri, non puoi, non, una cosa impossibile. No, no, no, su quello io ho sempre stabilito delle linee che sono quelle del di fare ognuno il suo. Se tu sei un operaio di un certo livello, io che sono responsabile della squadra dico Tizio Calcepino fa quello, Tizio Calcepino mi viene bravo il picco, perché so che sono bravo a fare col picco, non sto facendo un'ipotesi, capito? È così. Però ti posso garantire che io in 20 anni di servizio e attualmente con un incarico molto molto delicato e particolare, da quando abbiamo fatto i nuovi aggiornamenti, i nuovi concorsi eccetera, ti posso garantire che io ho delle persone nel mio lavoro che tu le dai la carta e le dici Giovanni e Antonio, io sto andando a Tempio, non c'è nessun problema, mi raccomando, non segue una cosa, non segue l'altro, qualsiasi problema io sono al telefono, ok, cambio d'oro, non solo è fattuissimo, ma ne hai anche iniziato un altro, a loro responsabilità, senza neanche avvisarmi, quando arrivo lì, è successo questo e questo, abbiamo fatto quello, perfetto, a posto, tutto a posto, abbiamo già risolto, ok, non mi chiamano neanche, perché sono delle persone capaci e sanno quello che devono fare. Sì, sì, una cosa con te, non c'è. Così, come va per culo? Ma si cosa è la sigaretta? Ma sì, tu più forti. Ma non può fare i cose con i bratti. Così. Non sei mai tu che comanda. Non sono le mani, proprio le... Io non so, la cazzo ci mette in mezzo alla sigaretta, ci mette qualcosa che proprio... Non so. Poi lui, quando stavo fumando ultimamente, là. Le diane, e poi l'avevo messa da parte e stavo trovando un saporaccio, guarda, non ti dico, proprio schifoso, proprio sapore di come si chiama, di... ma adesso mi viene la parola, ma ci metto nel mezzo, catrame, come da cazzo vuoi? Io come hai detto la sigaretta, una cosa da cucciolaccio, frate, prendi, stanno in bagno veloce. Ci mettono, però è un casino buttarla via, è un casino. Io ci fumava il comino, un anno che non era più fumato, da 2 anni, e adesso sta di nuovo a riprendere loro a fumare. Chi pensa? Se vuoi parlare di salute oppure a fuma? Che ne che fuma? Io ho visto anche ragazzini là, là. Ho trovato un bacco di ragazzini di 13 anni, 14 anni fumando. Ma io non ne ho più chiusa. Adesso mi sto mangiando una caramella, ma non c'è così da rete, ne ha giù la madre, ho portato per la cena e tutto, buff, finish, basta. E ti posso fare anche il suo cuore fuori? E già lo grido. Quando non fumi stai meglio, mi salute tutto il respiro, il durato, non c'è catarro, non c'è niente, non c'è andare in casa. Il naso, quando si sente, è dovuto dal fumo. Ma cercare. Ma no, però mi ero incrocio che fa. Vincere con l'Inter in casa partita a lottato fino all'ultimo, e per la vincente al 90esimo che ha pensato la Juve ha fatto gol 2-1, va bene, non è una grande cosa per l'Inter, però certo, vanno a giocarci la Champion e tutte e quattro le squadre italiane, sempre la Juve ci deve piangere. Perché? Perché non ha difesa, non ha difesa, non ha difesa. E tu pensa che la difesa della Juventus è quella della nazionale italiana, quindi con Cannavaro, Meta, Chiellini, hanno invato mezza rimane, hanno invato proprio da cacca, capite? Da cacca. Il suo Cannavaro aveva il biglietto e fuggivato, ha fatto un tunnel matri a Cagliari, ha fatto un aspetto come lui un campione del mondo, ma era campione del mondo, quindi sei campione del mondo, ma ho pensato. Mica sempre questa, ci sono partite che giocano bene, vanno alla grande, ci sono partite che andano sempre bene, poi dipende come sono preparati anche, poi dipende dalle altre squadre come sono messe, sono preparati bene o meno, capito? È una ballottaglia possibile, quello che vogliono. A me piace un giocatore, un portuista, un grande lottatore, molto molto falloso, molto prepotente, però ha fatto un gol da fuori aria di punizione, madre di Dios, ma non manco Maradona disegna che si gol, ma bello veramente, guardatelo domani, io lo sto guardando su 1.700 premium, ma guardatelo domani, veramente un grandissimo gol, che ne parleranno tutti i giornali domani, grande, veramente grande. Certo, mi avevo già fatto, madre di Dio. E non possiamo avviare. E fra, cosa torna a Magnendi, sei Luca? Sono sempre Magnendi, sempre. Io sono oggi sto male, sto male, male, devo di male. Cazzo, vabbè. Senti come rifumando. No, un cazzo, no, no. No. Non c'è la cosa sua, quella ha detto, una fatalità, e non è tirata, va. Davvero? No, è buio in penna, va. Se tu ne eravamo la diventa, mi sa. C'è una ruota, c'è una ruota, sì. Ah, se ne pinnelli, so. Madre di Dio. Beh, ma so, va vero, non dico male. Ma sai che c'avevo sempre due sotto la scugliuppa? Ma se è domiciliare mi sembra così, però io posso garantire una cosa, io avevo 14 anni quando ho iniziato a fumare, ma ho 49 infatti, sto andando già per i 50 e ti dico che mi sta iniziando a pesare, un po' di affanno, un po' qui, un po' là. Grazie a Dio ho sempre fumato sigarette leggere, però non va bene, non va bene. Con 40 anni sono lì a sigarette in bocca. Bomba la matti. Mimi, sono preso e tornando lì, per le pacchette da me. Guarda, quando vedo una squadra così, che non è quella che ti fuglio, che gioca veramente a pallone in Champion, è una cosa allucinante. Si è trasformato oggi, cazzo. Veramente una grande squadra. Ammazzate le gioie. Vabbè, Uber non è una grande squadra che lotta, però ha un gioco particolare, non si ferma un secondo. Il Bayer è puzzolente, puzzolente che non attacca lì. So che a finisci di ore ci vanno fisi di merda. Beh, ce l'ho a fare. Ma ripeti il frate che vado a farmi le mani, vado a farmi il cazzo di duzzo, va. Andiamo, ma proprio per grazie andiamo lì a fare un lavoro lì a Mediterrani. Sempre non ci metterete lì a lavorare in cucina, studiare, preparando la macchina, tutto quanto, sistema. Sai, poi mi faccio al maltempo lì, scusa, ma bagno non c'è nessuno. Dice sì, mi scende giù, dice ci sono tutti i bagni lì. Abbiamo visto la Diana, non te ne dico qua, però io non ci mai visto una cosa del genere. La merda sopra il soffitto. Che schifo, che ma guarda che nei locali a quei livelli ce ne sono tanti e non è che cambia, casa mia. Siamo andati a vedere un nuovo sciatovere. Quindi ci hanno dato una soffiatina. Stiamo facendo lavoro lì a Sardinia, lì sulla con il ristorante pizzeria che c'è sulla spiaggia, proprio quello che dà di fronte alle ringhiere con il legno che ci sono lì nella piazzetta. Tutto bene, non vola di bisogno di dita, di garraggio e tutto. Abbiamo fatto, c'è un'altra segnalazione, ci siamo entrati. Lui ha detto che era il titolare, e ci pulisce per 75 anni senza battere. E non dovevamo una divisa, quindi se ne è accorto subito. No, guardi, ora facciamo domani, dopo domani chiamo il campo e faccio parlare tutto, ascolti. Adesso noi prendiamo, siamo usciti fuori dall'altra guardia, abbiamo preso tutto, abbiamo fatto la foto, è stata un'altra settimana questa roba fuori. Alla fine, quando siamo ritornati la seconda volta che hanno preso verbale i 6.000 euro, abbiamo fatto anche il controllo all'interno, perché abbiamo anche l'autonomia. Ma ci fa avere tutte le licenze, adesso tutti i permessi dei lavori, tutte le cose che state facendo, e poi ci fa vedere le cucine, i bagni e tutto. Ci fa vedere il bagno, ma non è manca a me c'è l'albergo, e hai tutto cagato. Ma non è Mediterraneo, è una cosa incredibile, va. Tutti i bagni così erano. Cazzo, io ho detto tra me, ma come cazzo fanno? Questi qua sparano dal culo, sparano. Porca vacca. Allucinante, è tutto cagato, tutto venuto, ho detto ma dovete, ora inauguriamolo per domani. E questi bagni? E questi bagni l'impresa sa, qui là, ho detto l'impresa, ma qua neanche maiali ci entrano. Pulite tutto perché il giorno dell'inaugurazione noi veniamo. Se le cose non sono a posto, voi non aprite. Infatti viene tutto messo a posto, tutto bello pulito, tutto ordinato. Siamo arrivati anche lì, abbiamo bevuto una cosa, insomma siamo stati in lavorazione il giorno. Eravamo io, Walter, comandante di Olbia, il tenente che c'è lì, e poi c'era Paolo, comandante con Lello con i Sassari e altre due guardie di Terracena. Ah, invece non è stato tutto passato dalla Ruspa Vura, tutto spianato, tutto pulito e fatto. Cazzo, 6.000 euro di multa li ha messo. No. Questo Paolo non l'ho più visto, ma non sta facendo più servizio. Sì, adesso è in ufficio Paolo, sta uscendo poco, anche perché sta occupando di questa del dottor Adolfo e quindi è un bel impegnato. Era a Roma la settimana scorsa con Giovanni, è andato, poi a Cagliari c'era una riunione e poi sta qua in ufficio alla, chiamiamola là dove c'è l'Adige, no, lì a Pavese. C'è dato l'ufficio la prefettura lì, sempre tramite l'Avis. Da una stanza, una sala operativa e una normale per le riunioni. È una bella cosa. Infatti lì adesso ho già preso le misure con Giovanni, anche lì dobbiamo andare e vedere i pali che devo prendere al GBC, c'è già il buono pronto. Il tempo bello abbiamo montato sulle due antenne, quella VHF e VHF e quella del ripetitore Montealvaro, sennò è un casino, c'è un sacco di cose da fare, non sto comprando una minchia. Ma come è stato, facciamo sempre servizio lì in polizia, sì, ma non c'è più. No, non è sempre sovrintendente in polizia, è più il comandante della Zuffia, un secondo grado, sempre con i gravi dati supplementari, però è sempre un sottufficiale di pubblica sicurezza del suo lavoro, capito? No, più visto, guarda, prima lo volevo spesso. A lui, a Antonio, all'altro collega, non va di più, però che non va di non lo vengo. Ma l'altro giorno ci siamo visti, stavo a portare due aggiuntivi, ci avevo due aggiuntivi che mi avevano dato, dovevo già presentargli la formativa, li ho portati a lui in ufficio in questura, e poi sono salito su da Maurizio all'ufficio della polizia postale, ho fatto anche chiacchiere con Maurizio, niente, ci siamo visti così di proprio 10 minuti. Poi ce n'era, ho trovato Gaetano e abbiamo fatto lui e là dice, ah, da me sarà di comprare, direi. Ma l'ho comprato, c'è sempre quella, cioè, cazzo, ma la gente, ma era ancora di a me, se siete da cazzo, via, prendene una. No, no, no, non mi interessa, non mi interessa. Adesso sto facendo attività col quadro in banda. Ma come si è comprato la radio Nuvola? Lasciami Gaetano. Ma me l'ho vista Gaetano? Gaetano l'ho visto. Si parla di ieri sera per dottore, ci siamo visti. Un giorno, tra virgolette, ecco, poco sono invecchiato, ma ripeto tutti i viaggi, non è bella più sedica. Thank you. finisce le sangue a voce, ma ancora oggi. Quando ho preso il posto di bel fiore, dove aspettava il capo. Quando ho preso il posto di bel fiore, quello tira, ecco, tira l'arma, segue tutta la parte amministrativa del baravano. La cosa più delicata, eh. Ascolta, voi c'era una prima, era anche sulla federazione italiana lì del tirassegno nazionale del corso. Sciarra, Franco. Ma tu presente Peppino del gruppo di Sciarra? Ma Sciarra, dico, cioè, Sciarra è presidente della Federazione Italiana della Caccia. E lui è stato presidente del gruppo, ti ho detto di Sciarra, del gruppo c'era la federazione del circolo di Sassari, no? Lui era presidente del circolo di Sassari del gruppo Sciarra. Già, ho capito, sì. Ma c'è ancora, cioè, vabbè, io sono bello, non ci guardo lì, Però sicuramente c'è sempre Franco Sciarra lì. È una buona persona, Mi mancato, guarda, io alziamo me. Già, ho fatto tutta la guarda, ci ho trovato un'altra volta lì, che sono entrato in violazione da comprare delle cose. Ah, proprio quando ho discorso per calcio, e c'era lui, e mi ha detto, ma allora per calcio non c'è niente, ha detto, la finisce, ma non è più voglia, vai, mi ha detto, non andrò, sì, mi ha fatto due tiro a piattello, qualche amico, lo lascia perdere, come mi ha detto anche Sergio Domenica, se vado a tiro a piattello, c'è una gara, uso un po' più pistola, ma non ci vado perché non sono preparato, non me lo piace tutto. Prima mi faccio un po' di poligono, poi vediamo. E quella che Sciarra abita nella cooperativa dei Vigili Urbani, la cooperativa che c'è in via Baldè dall'inizio, subito dopo il comando della guardia finata a sinistra, dove c'è il panificio Ballarini, di fronte al bar, lì abita me. Dove abita Marco Freddo, dove abita Quinto, dove abitano molti Vigili Urbani, che sono quasi, vabbè, Vigili Urbani. Sono questi gli ufficiali adesso. E ce ne sono anche pensioni. Sì. E Sciarra, Franco, il figlio Coso, Carlo. E poi c'è un padre, quello che ha chiuso tutta l'attività praticamente. Perché non Sciarra è quello che è andato in macchina assieme a Paolo Farre, se ti ricordi. Lo so. Ah, lui era il padrone, dove c'era Piruccio. E se conferma. Se vuole venire in mano va via. Oh vabbè, le mamme hanno muri, Le mamme hanno muri. Gli appassamenti va affittati. C'è il caso da tutte le parti, poi anche nella zona di Nuvolo, lui era provato molto con Paolo Farris, perché hanno iniziato assieme. Tutte e due la Fiat, la strada era nata tra Paolo e Carlo, tutte e due erano società. Poi c'erano divisi, Paolo Flores aveva tenuto la Sassari Carri e Carlo aveva portato la Tadel lì a Caniga. L'ha tenuta per un bel po' di anni. Ma se non so, ha fallito, ha chiuso, proprio, diciamo così, non gli interessa più fare l'attività. Boh, non lo so, cosa è successo. Sistema lavorativo lì è un sistema un po' particolare, vabbè che lui già è del mestiere, è un grande, quindi non è un problema, poi bisogna vedere cosa è successo. È chiaro che se il budget di fatturazione era 600, dico una fesseria, non lo so, 600 macchine al mese, e lui ne fatturava per dire 400, aveva sempre 200 sotto, 200 si fanno i buchi. Una volta che hai i buchi può recuperarli, è un casino, perciò bisogna vedere che cosa è effettivamente successo. Il problema è tutto lì, non lo so, bisognerebbe sentire più luce a sapere esattamente il perché hanno chiuso. Non so neanche cosa sta facendo adesso Pinuccio. Anche perché sono governo. Esattamente, da giorno siamo usciti assieme a Bettino, praticamente, capito? Aspetta, ma cosa è stato quando siamo andati a trovarlo? Mi sono detto i bucatini di botte, ma non è buttato a gara. addirittura passato il turno, 2-0, ma va bene così, sono contento. Roma conosce una cosa molto, le squadre italiane in Champion, Fiorentina punteggio pieno, mentre seconda ce l'ha la pari con la prima e il Milan seconda, va bene lo stesso. Un po' guarda, un po' guarda, un po' guarda. È un bel po', poi c'è il disco P, la nave di Giga, è sicurissimo. Oh, vabbè, ma è sempre lento, non capisco perché. No. Sarà. Ma se vuole appena viene Franco, allora come la situazione, se è questione di cose o cos'è, cosa voglio che non disco. Grazie. dicendo, poi la domani mattina, domani sera è morto, quando salgo al parcheggio. Ma sai cosa è una rottura delle palle? Che devo rimettere il terone, via, mamma mia, un travaglio per qua. Per me quelle vittime ne passano 4